La cicogna nera. Le Save the Link sono fatte per essere cantate. Vivono da qualche parte nel subconscio di tutti noi. Ed è sufficiente che qualcuno le animi un poco perché tutti scoprano di conoscerle. Ogni Save the Link è una storia d'amore di uno di noi, lei è la vita. L'infanzia, quando hai 16 anni e ti innamori per la prima volta, e poi l'amore continua, e poi la vecchiaia. Queste sono le parole di Adem Duriman con cui apriamo questa puntata della Cicogna Nera quando sono passati 4 minuti dopo le 21. Apriamo con 2-3 canzoni di Sevda, il genere urbano, di musica urbana della Bosnia. Questa è la Cicogna Nera, le musiche popolari contemporanee, le musiche del mondo nel nuovo millennio, senza distinzione di genere e di stile. Appuntamento settimanale ogni giovedì alle 21. Ricordiamo brevemente i contatti: 06 49 17 50 è il numero della diretta, oppure potete scriverci una mail, l'indirizzo è lacicognanera@ondarossa.info. E infine potete anche ascoltarci in streaming sul sito della radio all'indirizzo www.ondarossa.info/trx/lacicognanera. C'è tutta la musica che mandiamo. Allora, ascoltiamo questo primo brano, è il figlio di un grandissimo della Sevda, si chiama Damir Imamović. Ostavljen sam već odavno, bez ljubavi, bez sjaja. Oh, arrangiamenti minimali e anche un'apertura verso il jazz per Damir Imamovic, la nuova Sevda, i nuovi interpreti del genere musicale per eccellenza della Bosnia. E la Sevda continua ancora Adem Duliman, che è l'animatore di un circolo ricreativo, di un teatro, di un circolo culturale, di un vecchio cinema, il Kino Theater Prvi Maj di Sarajevo, una città stupenda. E la Sevda, dice ancora lui, è la musica delle famiglie bosniache. Ogni famiglia bosniaca ha una propria Sevdalinka. E la Sevdalinka parla di amore, parla di abbandono, di nostalgia, parla di struggimenti, parla di luoghi e anche di personaggi. E la Bosnia è un paese musulmano e questa Sevda in passato serviva molto spesso a dei ragazzi per farsi conoscere tra di loro, per far nascere l'amore. Erano uno dei pochi strumenti relazionali che avevano a disposizione. La Sevda dunque è una musica che va avanti da 400 anni e che finalmente oggi, a dispetto di molti vecchi della Bosnia che vogliono tenere immutata questa forma musicale, cercano di cambiarla, di aprirla. Così è il figlio di Zaim Imamovic, questo tra i grandi vecchi della Sevda. Così è la prossima cantante che andiamo ad ascoltare, che ha pubblicato lo scorso anno Zumra, un bellissimo album, si chiama Amira. E per far questo, per far ciò, si è avvalsa della collaborazione di una fisarmonicista di verve contemporanea, di verve classica. Non è andata a cercare nella musica popolare, perché Amira ci dice che chi suona la Sevda e chi suona la fisarmonica sono troppo violenti, sono troppo eloquenti, come dire, sguaiano. Non mi ricordo il termine esatto dove ho letto, probabilmente proprio che sguaiano troppo le fisarmoniche, e così ci voleva un'interpretazione un po' più minimalista, come è stato per Damir Imamovic. Dunque andiamoci ad ascoltare questa prossima Sevda, Amira e Merima Kliuko, con una canzone che non tento neanche di pronunciarvi, l'album è Zumra. Thank you. E qui si vede tutta l'impronta stilistica della fisarmonicista Mary McLeuco, un pezzo indefinito, un pezzo che si apre piuttosto che chiudersi, un pezzo quasi sperimentale piuttosto che popolare. E questo rispecchia, questo pezzo nonostante ciò rispecchia pienamente la tragicità, la nostalgia, la malinconia della Sevda, che è la cifra stilistica proprio di questo genere della Bosnia. E la Sevda, che come vi ho detto è arrivata qui nel Medioevo, 400 anni or sono, grazie all'impero ottomano, e in effetti in passato si suonava con il saz, che è questo liuto tipico della Turchia. Poi con l'impero austro-ungarico gli strumenti sono cambiati, sono entrati soprattutto i violini, la chitarra, è entrata la fisarmonica, e quello che però è importante dire è la voce è fondamentale in questo genere musicale, come avete sentito, e conta parecchio, direi totalmente, l'interpretazione, anche se comunque diciamo che si possono sentire all'orecchio in queste interpretazioni delle melodie ricche di melismi e soprattutto orientaleggianti, dunque un retaggio molto presente, molto ben ascoltabile dell'Oriente, dell'impero ottomano. Dunque questi sono i due artisti, diciamo così, innovativi che abbiamo ascoltato per questa sera, per questo genere musicale della Sevda. Andiamo invece ad ascoltare una collaborazione, due canzoni e due collaborazioni diverse. Il gruppo principale è lo stesso, i Mostar Sevda Reunion, un'istituzione ormai insieme a Zaim Imamović, che vi abbiamo citato in apertura, e che hanno collaborato con due mostri sacri, se così li vogliamo chiamare, del Gypsy, della canzone Rom, della canzone balcanica e Rom. La prima si chiama Liliana Butler, è stata nominata spesso la madre del Gypsy Soul, e ha collaborato appunto con i Mostar Sevda Reunion nel 2005 per dare alla luce un album dal titolo La leggenda della vita, The Legends of Life. Dunque ascoltiamo un brano da questo album, si chiama Mala Garava. Ciganka sam mala, oči moje gore, igram, pevam, plešem celu noć do zore. Ja sam mala garava, crna tvoja ciganka, mala garava, crna tvoja ciganka. Piramange, romale, piramange, čavale, piramange, romale, piramange, čavale. Zaboravljaš tugu, srce hoće jednu, a razum traži drugu. Samo malu garavu, crnu tvoju ciganku, ja sam mala garava, crna tvoja ciganka. Piramange, romale, piramange, čavale, piramange, romale, piramange, čavale. Na si moje oči, ti radije srehlo, ostala bi tvoja za svoj život se. Samo mala garava, crna tvoja sigaka, ja sam mala garava, crna tvoja ciganka, piramage romale, piramage šavale, piramage romale, piramage šavale, piramage romale, piramage šavale, piramage romale, piramage šavale, piramage romale, piramage šavale, piramage romale, piramage šavale. Voce profonda e cavernosa per la madre del soul gitano, per Liliana Butler, al secolo Liliana Petrovic, che dopo essere diventata una star della televisione serba negli anni 80 era stata costretta a fuggire in Germania durante la guerra dei Balcani, e poi a un certo punto è rientrata in gioco perché è arrivato Dragi o Draghi Sestic di un'etichetta olandese, la Snile Records, che l'ha riscoperta e così l'ha fatta insomma ritornare in sala di registrazione assieme ai Monsters of the Reunion, e ha pubblicato questo album. Ne ha pubblicato un altro nel 2008-2009, ancora più tragico, profondo, e poi è morta lo scorso anno. Insomma, questo album è uscito poco prima della sua morte, dunque gli rendiamo omaggio. È morto anche l'interprete della prossima canzone, sempre insieme ai Monsters of the Reunion. Liliana Butler era la madre, lui era il re del Gypsy Soul. Non Soul, era il re della musica gitana e basta, Saban Bajramovic. Comunque qui si stanno mescolando in queste due ultime canzoni la tradizione gypsy, la tradizione rom dei Balcani con quella della Sevda, che non è proprio una cifra stilistica degli zingari, anzi, come vi ho detto, è stata portata dall'impero ottomano. La stessa parola Sevda arriva dal turco, che la riprende a sua volta dall'arabo Savda con la doppia V, che significa, pensate un po', bile nera. E questo proprio perché si pensava e si pensa tuttora che la bile nera fosse la causa della malinconia di cui è piena l'interpretazione di questa musica. Musica che spesso, se l'ascoltate, può dare così risonanza ad un altro genere musicale, sempre dell'Europa, però al versante opposto. Qualche volta ricorda, soprattutto per la passionalità, per la profondità dell'interpretazione. Parliamo del fado portoghese, e anche lì insomma l'interpretazione è tutto, e la tragicità, la saudagi è in primo piano. E forse proprio la parola saudagi ha la stessa origine della Sevda, arriva dalla stessa parola araba della Savda. Comunque, questa è Sevda e ascoltiamo l'ultimo pezzo di questo genere per questa sera, un album agli albori del 2000-2001 con la regina, con il re, scusate, della musica rom, anche lui serbo, Saban Bajramovic. Ascoltiamo questa collaborazione, la canzone è Jeli Mara. Pomotori besle, a ne pesta gelem io, a starge ma ai pandlema, trincale soltara io. Dui mare ma ye cucel ma, sol se grate alem, me motava, moro. Te dica, oi si parli, voi si panda di triversa na kena, me avilem te dicavla, te ni bisara. We'll be right back. šari, joj, joj. Lilja veselolo šali, joj, joj. A starđela, Emanuša, Inđardela, aj palela. A starđela, Emanuša, Inđardela, aj palela. Zatvori, pola me te vitav joj. Oj, dikel majno vela, čavenje pučel majno. Galbarile mune čaven. Čavenje pučela, trinder žive nidi klemu, e nidi sare. Čavoren tuka ale, aj mene dikavle, e čavore edikento, e niti stare. Geli mara pova šali, joj, joj, čorda pese lolo šali, joj, joj. Astarđela, Emanuša, Inđardela, aj palela. Astarđela, Emanuša, Inđardela, aj palela. Omaggio a due grandi della musica gypsy scomparsi di recente, Liliana Butler e Saban Bajramović, che a 19 anni disertò l'esercito per amore di una ragazzina e quindi dovette passare 5 anni in isolamento su un carcere di Goli Otok, un'isola dell'Adriatico, luogo di maltrattamenti per lui, luogo anche di futuro interesse per la musica. È proprio qui che lui poté studiare da autodidatta e diventare il re della musica gypsy che poi è stato. Allora, andiamo avanti, è cambiata la base, cambiamo anche musica, ma non cambiamo la radice portante di questa musica, rimaniamo nell'ambiente dei Rom. Spostiamoci però da due etnie diverse, probabilmente, perché non ci metto la mano sul fuoco, ma Liliana Butler e Saban Bajramović dovrebbero appartenere all'etnia, insomma, Rom, mentre in Spagna, dove ci stiamo trasferendo ora, nella patria del flamenco, c'è un'etnia molto importante, molto presente, che è quella dei Calè, un altro sottogruppo di zingari. E anche la voce che avete sentito in questa canzone, particolarmente Geli Mara di Saban Bajramović, ditemi se non vi ricorda il canto flamenco, ditemi se non va in quella direzione. E allora andiamo ad ascoltarci due progetti nuovi, tutti e due datati lo scorso anno e tutti e due che tentano un po' di distaccarsi dal flamenco ordinario canonizzato, che comunque resta sempre una grandissima musica. Il primo è Joaquín Ruiz, o Ruiz, che ha pubblicato Caravana, e una compagnia di musica flamenca, che nasce nel 94 precisamente, e poi il suo leader decide di provarci non solo con la coreografia e con gli spettacoli, ma anche di trovare uno stile originale con la musica, e dunque aprirsi un po' alla come dire, culla del Mediterraneo, alla sua penisola, dove fu una crocevia di stili e di influenze, da quelle della civiltà romana, da quella della civiltà araba, dagli ebrei sefarditi, che poi dovettero andare via qui nel 1400 e qualcosa, se non sbaglio, e appunto i gipsi, i calè, soprattutto qui. Andiamo ad ascoltare Caravana, questo album, con Macedonia de Rumba. Se comiera toitón, le temen al moro como si el morito fuera yumbi. Si to venenoso calao, gente se comiera un visito venenoso, que la gente se comiera. Nuovo flamenco, dunque, un flamenco aperto per Joaquín Ruiz e la sua compagnia, che ha preso via nel 94, e di nuovo flamenco, di flamenco fusion, è anche il prossimo gruppo che ascoltiamo, sempre dalla Spagna, si chiamano i Maita Vendeca e prendono il via un paio d'anni dopo della compagnia dei Caravana. Maita Vendeca ha fatto un album lo scorso anno, si chiama Corazon Noble. Anche loro si aprono di più rispetto a Joaquín Ruiz, mettono dentro un po' di pop, di jazz, di reggae, di samba, di rumba, di tango, un po' di tutto, e hanno fatto questo bel lavoro dove ci sono 11 tracce originali e due invece sono reinterpretazioni di due famosissime canzoni. La prima è I Got a Woman di Ray Charles, e l'altra, che facciamo già partire, è una bellissima canzone di un grandissimo folker italiano, Che cos'è l'amor. La grande canzone di Capossera. Che cos'è l'amor? pedirle al vento que fuerza su lamento, sola ya ya del viale del tramonto. A la moca de lata que aprecio el sugacero, va a ir a la estación en data al ritmo de los pies a sus hijos. Qué cosa el amor, qué dilo la porta a la guadarroviera nera, al su romanzo rosa. Qué folia se apoya al saludo irriverente del peruviano don Dolante, que china el lustro de la séptima polar. Ay, permite, señorina, sin el rey de la cantina, porque yo tuto croco, soy tu ilumi del arco de San Rocco. Ah, se apoya y volentieri, fino al alma, libida de bruma que se suga y se consuma. Qué cosa el amor, pinzazo en las cartas, que puño el paso lento y bolero con la mazola extrañera. Extingere per finta una extraña caballera, el grito de misera perso al caldo de bandeja sucia. Qué cosa el amor, en la carmela entra en campo como una bayaza, corpo grosso, te lo prendiste los guasa. Ahí está aquí alto el culo vaso, la panza nuda así dimena, vuelta la testa de basata col consenso de la mica sofidata. Ay, permita, señorina, soy el rey de la cantina, vampiro de la línea, sotratón de la cochina. Soy monarca, soy bohemio, no encuentro en la miseria, mi chitufo con viñita de rey. ¿Qué cosa el amor? En un girizo su común, imposto con tal pare, que lontano solo prima de arribar. Ay, partía, ay, partía, e mi ritrovo ricacciato, mio malgado nel girone antico, qui dannato, tranqui file del bar. Che cosa l'amor? È quello che rimane, da spartirsi e litigarsi nel setaccio della penultima ora. Qualche se da rivarino, mi permetto di salvare il suo destino, della luna agghiacciata, degli immigrati a segli della banda Sassi. Grandissima canzone di Capossela, a voi decidere se questa è un'interpretazione degna del suo nome. I Maita Vendekà alla Cicogna Nera, quando sono le 9:37 minuti primi. Andiamo avanti, ci trasferiamo dalla Spagna all'Italia, rientriamo finalmente. La Cicogna Nera è un po' troppo esterofila, viaggiamo sempre molto lontano, ma ci sono dei gran gruppi anche qui in Italia di musica popolare, forse che troppo spesso sono legati alla tradizione e non tentano l'ibridazione, non tentano altre vie di musiche tipo l'elettronica, il jazz, ma ci sono progetti veramente interessanti. Vediamone alcuni. Questo che vediamo ora non è un progetto nuovo, sono gli Acquaragia Drome, uno dei gruppi storici della musica popolare italiana. È un gruppo che passa dalle tammurriate dei sinti del Vesuvio, i sinti se non altro Etnia Zingara, alle serenate dei parenti rom molisani, fino a metterci dentro le tarantelle dei musicanti calabresi, le pizziche del Salento. Una formazione che si è sempre rinnovata, dinamicizzata, che è andata ai festival internazionali, così come anche ai matrimoni per guadagnarsi da vivere. Una scena, una musica che fa venire voglia di ballare, quella di Acqua Raja Drom, che ha pubblicato 2 anni fa Rom Café, l'ultimo album, e come sempre si avvale di amici vecchi, nuovi. Questa volta, oltre ad avvalersi dei Taraf de Metropolitana, che gli danno veramente un piglio forte, insomma un piglio da ballo a Rom Café, c'è anche la collaborazione di un altro cantante molto molto conosciuto. Lo ascoltiamo proprio quella canzone, che è una rivisitazione, si chiama 24.000 baci, l'avete sicuramente ascoltata sempre. Con 24.000 baci come te la mancherò mia, come te di alla bau amore, ogni minuto è tutto mio. Opa! Con 24.000 baci so cammino massivo amore. Son tenes meravigliosa, orbe di amore appassionato, tal mai sei magiche da te. E con 24.000 baci, così prendete con l'amore, ad occhi c'è sen cu di me, che a fa minuto sarò mio. Orbe di amore appassionata, da masse magiche da te. Con 24.000 baci, opa! Mi dici me nasce le ore. Con 24.000 baci, poca ma minuto sarò mio. Son tenes meravigliose, vorresti amore appassionata, da mai se magiche da te. E con 24.000 baci, felici me nasce le ore, il nostro viaggio scrive perché. Con 24.000 baci, tirati e manca la follia. Con 24.000 baci, cada minuto sarò mio. Secondo, what's ne that? Bacio 3. Parte! Veramente interessante questa versione di 24.000 baci. La canzone in sé non è che sia poi questa grande tradizione della musica popolare, ma la reinterpretazione che ne danno gli Acqua Raja Drom insieme al raddoppio vocale che avete sentito, che è un personaggio molto famoso, ossia il leader, il vocalist, per parlare in termini di pop, dei Gogol Bordello, ossia Eugene Utes, che come sapete, forse molti di voi non lo sanno, ma ha transitato anche in Italia per alcuni mesi, penso anche che è stata in carcere dalle parti nostre prima di andare a New York e fondare quel gran gruppo dei Gogol Bordello, che poi avrà un successo veramente mondiale, anche forse oltre le aspettative, oltre la qualità della loro musica. Allora, opa, diceva Eugene Utes nella sua incitazione in questa canzone di 24.000 baci. Opa zuppa è anche il titolo della prossima canzone, il grido dei gitani, il grido per scendere a ballare, e l'ascoltiamo in una rivisitazione dei Barba Pedana. 30 anni di attività per questo gruppo trevigiano, nacquero nel 1978, eccolo qui, 1978, e pubblicano 2 anni fa, l'anno scorso sicuramente no, penso un paio d'anni fa, questo Ghetto Klezmorim, ossia i musicanti del ghetto, dove all'interno ci sono le due musiche fondamentali per loro e che si avvicinano molto, ossia la musica che abbiamo ascoltato fino ad ora, quella di provenienza Rom, di provenienza Gypsy, e quella degli ebrei dell'Est Europa, ossia quella del Klezmer. Questo è proprio questo album è proprio una rivisitazione di tutti i pezzi, di tutti i classici di questa provenienza. E ascoltiamo l'apertura, Opa Zuppa, slash, proprio nel titolo, Cashin Dance, che è un altro tradizionale. E questo perché hanno voluto fare questo accoppiamento, questo sbarramento che adesso sentirete, due canzoni che si accoppiano e si alternano. E se ancora c'è la luce, I wanna ciò, alle mandale e ciò romana stale, a sta a sta la, mi mande a sta, sa voi ci manie coi con le macevo. Opa Zuppa, ma te manda c'hai e muca ci dai cadere, ai condicere, vai un vai un babà. Finisce così perché l'album è un continuum di queste giustapposizioni per i Barba Pedana. I Barba Pedana erano i cantastorie veneti che giravano di paese in paese e permettevano la perpetuazione, permettevano il passaggio dell'antica tradizione orale musicale del nostro paese. Restiamo ancora in Italia, mancano 10 minuti, ma penso che questa sera ci dilunghiamo un po' perché il Noctibus Panis non arriva. E dunque vi trasmettiamo un po' di musica in più. Ancora due gruppi italiani che vanno nella direzione teatrale questa volta. Infatti il primo è proprio quello di una musica concepita per lo spettacolo teatrale. parliamo dei Bizantina, che pubblicano Orlando Tarantato lo scorso anno e fanno folk revival fondamentalmente, ma non si privano di tutti i colori mediterranei che abbiamo ascoltato fino ad ora, musica balcanica e klezmer in primis. Allora andiamoci ad ascoltare questa canzone dell'Orlando Tarantato, pubblicato 2 anni fa, 2009, per lo spettacolo. Il titolo del brano è Olek Neffa. Io grande mago e fattucchiera, magia bianca, magia nera, giù sprecata su tastiera. Io sono cadente, impotente, disturbata ogni momento per le uai di questa gente. Con incantesima impastata, l'uccaglietta si è scedata, che sta nulla tutto in coda. Oh, poi quell'altro smidurlato, mi ha tomato, si è portato pure l'altra innamorata. È in un briccone patentato, ma l'ha visto su teatro, non fu fatta matriculata. Olek Neffa era il titolo di questa canzone, scusate, non Olek Neffa. Ancora, prossimo brano, prossimi artisti, come abbiamo detto, due gruppi che vanno nella direzione teatrale. Giusto un anno fa si esibivano sul teatro, sul palco del Teatro della Tosse di Genova, l'orchestra Bailam, per festeggiare il suo ventennale, 20 anni di ritmi dispari, 20 anni di capriole, di spezie mediterranee assorbite e svariate, di turcherie, come li vogliamo chiamare, dunque una varietà di ritmi ben diversificata anche per l'orchestra Bailam, che ha pubblicato questo Harem Bailam lo scorso anno, 2 anni fa, non è importante, no? 2 anni fa, come l'Orlando Tarantato dei Bizantina, e musica con note ricercate, note per teatro, note teatralmente volute. Eccolo, la canzone che ci ascoltiamo questa sera alla Cicogna Nera si chiama Rumenia, Rumenia. Oi, Rumene, Rumene, Rumene, Rumene, Rumene, Rumene, Rumene. E ven amol halant, azise a scheine. Oi, Rumene, Rumene, Rumene, Rumene, Rumene, Rumene, Rumene, Rumene. Wenn am Moll allant a sisse a feine. Dort zu wohnen ist a fargenigen, wo's los dein Herz du kennst du kriegen. A Mama Liegele, a Pastramele, a Kornozele. Una gleitele. Beru manna to vaya kol da var ki balta sham lo hayta jom be aya sharta be khalta gam ais dige dige dige dige dige dam ais dige dige dige dige dige dam ais dige dige dige dige dige dam ais dige dige dige dige dige dam in Rumänie is doch geht von Kindheit des Facebook mit vorhin trinkt mit liberal mir von weiß mit katschka ball ais dige dige dige dige dige dam ais dige dige dige dige dige dam ais dige dige dige dige dige dam ais dige dige dige dige dige dam Roim ruach gidol lechol tamam aligo Eze yofi, eze pelek Sheochmin tapach tarele Sitza! Hayiz digi digi dam, sitza! Hayiz digi digi dam, sitza! Hayiz digi digi dam, sitze! Hayiz digi digi dam Ach, ze meshageha, ma yachol iot Kol echad yodea, ech tzarif lishdod Hoi vekvar ditchem meshige Ich lit noch nitze mameligo Ich tan zu freizig bis der Stelle Ben ich hessa fago zene, zimma! Hayiz digi digi dam, zimma! Sigma, hey dig dig dig dam, Sigma, hey dig dig dig dam. Was ist am ich haye? Er sind keine Zein. Ei a vergnügen, nur mein ist mein. Vi devo raccontare una piccola storia. Tanti anni fa, in Romania, dovevo prendere un treno e allora così mia moglie mi ha preparato una piccola valigetta con un cibo kasher. Salgo sul treno, però arriva un soldato, probabilmente antisemita, e butta fuori tutto il mio cibo. Poi arriva un comandante, si siede davanti a me e il treno parte! Va bene, passano le ore. Il comandante al mezzogiorno comincia a aprire tutto il suo cibo e comincia a mangiare. Io non ho niente da mangiare, lui mangia, mangia, io no. Lui mangia, mangia, io niente. Poi lui mi guarda e mi chiede, senta rabbino, perché lui non mangia? Allora le racconto che io, insomma, ho perso tutto il cibo per il colpo di quel soldato. E lui veramente rimane colpito e mi propone di mangiare il cibo dalla sua cucina! Ecco, caro rabbino, gli propongo un po' di prosciutto. Mi dispiace perché noi non mangiamo il maiale, allora non posso mangiare il suo prosciutto. E va bene, allora ecco un'insalata di pollo. Comandante, noi non mangiamo il pollo se non viene macellato di un ebreo. E va bene un po' di formaggio. Scusi, è sua mucca mica ebrea. E così mi propone cibo, cibo, cibo. Io sempre rifiuto perché questo non è proprio in regola. E allora alla fine mi chiede, senta, fammi questa cortesia perché io ho qui un meraviglioso vino. Prego, bevi un po' del mio vino! Oi, oi, oi, vino! Yain, e vain, yain! Io amo veramente molto il vino, però vedi, comandante, per noi ebrei bere un vino fatto di un non ebreo è la cosa peggiore che un ebreo possa fare. Allora il comandante veramente si arrabbia, tira fuori la sua pistola e mi dice, senta, se lei non beve questo vino, io le ammazzo, credimi. E non c'è bisogno, non c'è bisogno, perché noi ebrei, vedi, sotto un pericolo, tutte le nostre regole vengono sospese completamente. Allora io prese questo bicchiere e comincio a bere. Caro comandante, un vino così non ho mai bevuto in vita mia, è meraviglioso, però devo dirle che ho un piccolo dispiacere. Senta, lei non poteva puntarmi la pistola quando mi ha offerto il prosciutto? Thank you. quasi le 10 in punto, state ascoltando La Cicogna Nera, ossia le sonorità popolari contemporanee. Le frequenze sono quelle di Radio Onda Rossa. Trasmettiamo qui, come sempre, dagli studi di San Lorenzo. La trasmissione sarebbe finita, come vi ho anticipato prima, invece ci prolunghiamo perché questa sera in Octopus Panis non sarà in onda e vi faccio ascoltare un po' di altra musica, un po' di musica che già ascoltate in sottofondo, quello di uno strumento bellissimo, è il flauto armeno, anzi non è un flauto in realtà, è un oboe perché ha una doppia ancia, è uno dei suoni più belli che esistano al mondo, sinceramente suoni diciamo di aerofoni per così dire, e si avvicina spesso anche al clarinetto, però noi rimaniamo in Italia per ascoltare Jivan Gasparyan, che è uno dei più grandi, forse il più conosciuto al mondo per quanto riguarda la tradizione del duduk, dell'oboe armeno. Lo ascoltiamo grazie a uno sperimentatore di linguaggi che vive a Roma, un grande personaggio, musicista, antropologo della musica, etnomusicologo, innovatore, che sta sempre diciamo a cavallo tra la musica contemporanea, tra il jazz e tra la musica popolare, tra il folk, che lui a cui si ispira sempre, ma non solamente del folk e del popular italiano, ha sempre a fianco a sé, chiama sempre per i suoi progetti artisti che provengono da ogni parte del mondo, che portano la loro cultura e le loro tradizioni musicali. In questo caso andiamo ad ascoltare la canzone che si chiama Prologue, ed è il prologo di un CD che ha pubblicato per il Festival della Zampogna che si tiene ogni anno in Molise. Sunaulos, all'incirca nel 2000 è stato pubblicato questo progetto di Luigi Cinque. C'è al clarinetto Shmuel Achieser, o Achieser se la pronuncia è quella, un clarinettista israeliano, e c'è appunto quel Jivan Gasparyan di cui vi abbiamo accennato ora. Andiamoci ad ascoltare questo prologo. Thank you. Questo era il lungo prologo di oltre 7 minuti di Luigi V con Jivan Kasparian, Shmuel Achieser al clarinetto per il festival, precisamente il 24esimo del Festival Internazionale della Zampogna che si tiene ogni anno in Molise, non so esattamente il paese qual è. Andiamoci ad ascoltare un altro disco, un altro brano di questo sperimentatore di linguaggi, di questo pioniere della world music, molto prima che questa parola, insomma, venisse in campo, così scendesse in campo, per usare un eufemismo, negli anni 80. E, dunque, uno dei primi personaggi, ripetiamo, Luigi V, che ha dato adito e impulso a quello che oggi chiamiamo multiculturalità, ha fatto cinema, ha fatto teatro, ha lavorato nel balletto, nella televisione, e il suo ultimo progetto, quello che ci ascoltiamo ora, ci ascoltiamo la title track, ossia Luna Reverse, pubblicato lo scorso anno, è stato proprio insomma l'idea per la realizzazione del suo prossimo film, che dovrebbe intitolarsi Trans Europe Hotel. La base della sua formazione, sempre l'Hypertext Orchestra, che lo accompagna spesso, anzi direi quasi sempre. E niente, non ci rimane che far partire la canzone e ascoltarla. Luigi V parte sempre, quasi sempre, come ascoltate anche ora, da un groove di sottofondo, da quasi un binario di musica elettronica, per poi metterci dentro qualsiasi ritmo, qualsiasi vocalità, qualsiasi melodia arrivante da ogni parte del mondo. È come un binario di un treno che lui usa per comunicare, per andare indietro ed avanti in ogni direzione. Allora, quando sono le 10:10, andiamoci ad ascoltare con Luna Reverse. E questo l'ultimo lavoro, l'ultimo progetto di Luigi Cinque, questa era la title track Luna Reverse. Come abbiamo anticipato, propedeutico al nuovo film che sta realizzando Luigi Cinque, sia Trans Europe Hotel. E mi scuso, ma mi vedo costretto a usare un attimino il mezzo radio per scopi personali, perché non riesco ad entrare in contatto con una persona per una comunicazione urgente. Dunque, Lucy, se mi stai ascoltando, chiama allo 0649 1750. Ancora in Italia rimaniamo per due gruppi, 15 anni, anzi forse ora 16 anni, nascevano gli Indaco, un gruppo che spaziava a metà tra la riproposizione, tra la rielaborazione del folk nostro, delle tradizioni musicali medio orientali e mediterranee tutte, e una forma così abbastanza spinta, abbastanza palese di progressive rock. Ora hanno aggiunto un aggettivo nuovo, i Nu Indaco, sono nati e si sono aperti, si sono messi all'ascolto, per così dire, di altre voci, e hanno pubblicato questo album veramente interessante, si chiama Su Mundo, lo scorso anno per Heliconia, e lo stesso Luigi Cinque ha partecipato in una o due canzoni di questo album. Ci sono anche altri ospiti importanti come Daniele Sepe, come Enzo Gragnanello. Noi facciamo partire subito la canzone numero 2, si chiama Dune, ed è forse la canzone in cui si sente meglio il retaggio del progressive, ma anche della new wave, della dark wave anni 80. Li ascoltiamo, New Indaco. Thank you. pezzo davvero molto interessante, questo dell'ultimo album dei New Indaco, Su Mundo. Questo era Dune, il pezzo numero 2 di chiara impronta dark, new wave, progressive rock, non lo so, decidete voi. E ancora ultimi tre pezzi in scaletta per questa sera. Ultimo pezzo invece italiano, Maria Colegni pubblica un album 2 anni fa. Anche lei si diverte alla rivisitazione delle musiche soprattutto mediterranee del mondo, e pubblica Mashinka. Ci sono diversi ospiti oltre alla grande voce di Roberta Zanuso e anche di Simonetta Artuso. C'è il grandissimo Mone Ovadia che canta con lei, e dunque una reinterpretazione di vari tradizionali, di vari popular song in giro per l'Europa. La canzone che ci ascoltiamo questa sera è una delle più carine, è del cantautore francese morto da un po' di tempo, Charles Trenet. La canzone si chiama Boom. Boom, dunque, Maria Colegni è un album veramente, veramente ben fatto, questo Mashinka 2008, ripetiamo. E allora, visto che abbiamo toccato la lingua francese, andiamo a chiudere con questa nazionalità, questa nazione per le ultime due canzoni di questa sera della Cicogna Nera. Andiamo però al sud della Francia, andiamo in un territorio veramente molto contaminato e, come dire, aperto al Maghreb, perché c'è la più alta concentrazione di emigrati da questa zona. Ossia Marsiglia. Due gruppi veramente importanti e che fanno della bella musica, della musica del nuovo millennio sicuramente. I primi sono i Vacha Clan, dunque mescolano dub, reggae e musica popular all'elettronica. Noi questa sera facciamo partire una canzone che fa parte di un non dell'ultimo progetto, ma di un album del 2002. La canzone che ci ascoltiamo si chiama Nomad, o dovrebbe proprio significare nomadi, dunque rimaniamo nel tema di questa serata, ossia di quelle di molte canzoni che abbiamo sentito, dei Rom, degli ebrei d'Europa, del Klezmer, che sono che sono appunto due tra le etnie, due tra le popolazioni più, più nomadi che ci sono mai state. Bacha Clan. C'est à ses pieds qu'on apprend l'humilité. Le calme et la plénitude apaisent nos esprits. Pas de foule, pas de stress, juste une zen attitude. L'air froid et sec enivre. I and I read. Car le natural mystique flotte à cette altitude. On fait y aller, on fait y aller, nous on peut bouger, on fait y aller. Dei migliori gruppi europei nell'ambito della musica del mondo, i Vacha Clan con questo Nomad del 2002 hanno pubblicato altri album, ma abbiamo voluto ascoltare questa canzone di immigrazione volutamente. Dunque andiamo sempre, rimaniamo cioè sempre a Marsiglia per l'ultimo gruppo di questa sera, Moussou T e Lay Jomong. Anche qui partiamo dal reggae, dal dub, lui infatti arriva dai Marsiglia Sound System e pubblica due anni fa, 2008, Home Sweet Home, un album un po' più europeo, un po' più blues rispetto ai precedenti che erano un po' più contaminati in senso globale. Andiamo ad ascoltare una canzone molto curiosa, molto carina, si chiama Alla Chotat Part 2. Chez nous maintenant c'est la mode, ouais. Tous les riches viennent en bateau. Les banquiers, les stars à la mode aiment être bercés par les flots. Ils ne débarquent pas, c'est commode, on ne peut pas les prendre en photo. Ils peuvent se noyer dans le rhum ou se balader sans le maillot. À la Ciotat, les rois du showbiz. Il mouilla la Ciotat, baron de l'acier. Il mouilla la Ciotat, les princes et les émis. Il mouilla la Ciotat, les géants des médias. Il mouilla la Ciotat, les mafieux, les parrains. Il mouilla la Ciotat, les grands, les présidents. Il mouilla la Ciotat, les patrons, les magnans. Il mouilla la Ciotat. Pamela Anderson, oh, à la Ciotat. Terminé les villas, les palaces, fini les ranchs et les châteaux. Aujourd'hui, quand tu es plein aux as, le summum, c'est le paquebot. C'est comme une île qui se déplace, t'as pas à croiser le populo. C'est super, c'est la classe, viens ici faire mouiller ton bateau. À la Ciotat. Les rois du showbiz. Il mouilla la Ciotat. Les barons de l'acier. Il mouilla la Ciotat. Les princes et les émis. Il mouilla la Ciotat. Les géants des médias. Il mouilla la Ciotat. Les mafieux, les parrains. Il mouilla la Ciotat. Les grands, les présidents. Il mouilla la Ciotat. Les patrons, les magnans. Il mouilla la Ciotat. Penélope Cruz. À la Ciotat. Je ne suis pas jaloux de ces riches, je ne convoite pas leur magot, leur top modèle, je m'en fiche, pour ça j'ai déjà ce qu'il me faut. Je ne suis pas jaloux de ces riches, mais j'aime bien ce qui est beau. Je voudrais qu'ils soient un peu moins chiches et m'invitent sur leur bateau. À la Ciotat. Les rois du showbiz. Il mouilla la Ciotat. Les barons de l'acier. Il mouilla la Ciotat. Les princes et les émis. Il mouilla la Ciotat. Les géants des médias. Il mouilla la Ciotat. Les mafieux, les parrains. Il mouilla la Ciotat. Les grands, les présidents. Il mouilla la Ciotat. Les patrons, les magnans. Il mouilla la Ciotat. Mireille Mathieu. Non. À la Ciotat. Musuti e Lei Jovent qui alla Cicogna Nera, 10:35 minuti, stiamo chiudendo la trasmissione e hanno pubblicato loro un ultimo album, Putain de Chanson, uscito pochi mesi fa, lo ascolteremo sicuramente prossimamente. Allora, vi lascio con questa base di sottofondo, lui è René Aubryat, un altro francese, musica, come la possiamo chiamare, musica dei ricordi, musica di sottofondo, musica di cinema, forse musica dei ricordi è la cosa migliore da dire. La Cicogna Nera torna giovedì prossimo come sempre alle 21 e tra poco alle 23 o giù di lì arriveranno i ragazzi di Apostasia, intanto un po' di René Aubryat, poi un po' di Automatico. Io vi auguro una buona continuazione sulla frequenza di Radio Onda Rossa, a giovedì.